Viva Voce con Alessandro Milan. Sono le 9:07 minuti in questo istante, gentili ascoltatori, ben ritrovati. 800 24 00 24, questo è il numero per intervenire in diretta. La mail vivavoce@radio24.it. Forse le parole di Giorgio Napolitano, che ieri all'anteprima lo ha definito un omaggio all'Italia, alla resistenza e alle vittime della guerra, placheranno un po' le polemiche, o forse no. Perché quando si parla di questa pagina storica dell'Italia, riferita alla Seconda Guerra Mondiale, i nervi del paese sono ancora scoperti, e lo sappiamo bene. Oggi esce il film di Spike Lee, Miracolo a Sant'Anna, ambientato nella Seconda Guerra Mondiale, girato in Italia, racconto di alcuni soldati americani neri venuti in Italia per liberarla dal fascismo e nazismo. Miracolo a Sant'Anna racconta anche l'eccidio, e c'è nel titolo ovviamente, di Sant'Anna di Stazzema in Toscana, 12 agosto 44, 560 innocenti, in gran parte donne, bambini, vecchi, uccisi dai tedeschi. Le polemiche sono qui per un racconto che per molti sopravvissuti di quell'eccidio il regista hollywoodiano ha distorto dal punto di vista storico. Fu infatti un atto gratuito, premeditato dai nazisti. Non c'erano partigiani nascosti a Sant'Anna, come invece Spike Lee racconta nel suo film, giustificando con questo la reazione tedesca. Non c'era soprattutto un traditore tra i partigiani, come invece lascia intendere nel film sempre Spike Lee. Insomma, la storia accertata dai tribunali peraltro è diversa, e così alcuni partigiani si sono decisamente arrabbiati. Quei partigiani che colpivano e poi scappavano sulle colline esponendo i civili alle ritorsioni tedesche, ha detto Spike Lee, e giù altre polemiche. Quei partigiani che non tutti amavano, ha detto Spike Lee, e giù altre polemiche. Insomma, la resistenza, un film, un paese, l'Italia, che dopo oltre 60 anni ancora dibatte su questa pagina storica. Io saluto Ennio Mancini, buongiorno. Buongiorno a lei e agli ascoltatori. Sopravvissuto alla strage di Sant'Anna, aveva 7 anni quel giorno, il 12 agosto 44, fa parte anche dell'ANPI di Pietrasanta. Sappiamo che è molto combattivo e arrabbiato per questa vicenda. Noi tra l'altro abbiamo realizzato, e l'ascolteremo subito in apertura, un'intervista a Spike Lee, il regista americano, che in questi giorni ovviamente in Italia, ieri era con il presidente Napolitano, e che insomma un'intervista anche un po' ruvida, in cui racconta la sua versione e dice basta con queste polemiche, non è davvero il caso. Miracolo a Sant'Anna, questo è il film che esce oggi, con le polemiche che lo accompagnano, le dichiarazioni anche del regista americano Spike Lee, con Ennio Mancini, voglio ricordare, sopravvissuto alla strage di Sant'Anna di Stazzema, 12 agosto 44. Voglio salutare anche una persona, giornalista, scrittore, che non ha bisogno di grandi presentazioni. Giampaolo Pansa, buongiorno. Buongiorno a voi, grazie. Giampaolo Pansa, giornalista e scrittore, non si può dire più del gruppo L'Espresso perché ha cambiato, ma questa magari è una domanda, gliela farò in chiusura. Poi autore di tantissimi libri su questo tema, quello della resistenza, Il sangue dei vinti è quello più noto, ma non solo questo. Partiamo però dalle parole di Spike Lee, lo abbiamo intervistato. Ecco che cosa ci ha detto su questo film e sulle polemiche che sono, ne sono conseguite e sono ancora oggi su tutti i giornali, a cominciare da una definizione che lui darebbe a questo suo film, Miracolo a Sant'Anna. Miracolo a Sant'Anna è più di un semplice film di guerra. Sono tante cose insieme. È un film che coinvolge molte emozioni, sensazioni diverse. Questo è ciò che ho voluto comunicare. Facendo un film sulla resistenza italiana, lei sapeva che avrebbe potuto suscitare tante polemiche un dibattito storico così serrato? Certo che lo sapevo, ma la cosa non mi sorprende. Sa cosa vuol dire per me? Che l'Italia non ha ancora fatto i conti con il proprio ruolo nella Seconda Guerra Mondiale. Molto semplice. Non avete ancora chiuso quella pagina. Le ferite, le immani ferite subite dall'Italia a causa della guerra civile, non sono ancora guarite. Molto semplice. Lei ha preso carta e penna e ha ribattuto a Giorgio Bocca, che è sostanzialmente l'accusata di distorcere la realtà e di dipingere i partigiani come gente che colpiva e poi scappava sulle colline, insomma dei codardi. Le chiedo, chi erano secondo lei i partigiani? I mean, they are freedom fighters. I mean, I don't know how Mr. Bucco. Sono stati combattenti per la libertà. Non so come Bucca potesse credere che io avessi un tale giudizio dei partigiani. La verità è che hanno preso una mia frase e l'hanno estrapolata dal contesto. Eravamo a una conferenza stampa a Firenze su cinema e memoria e il mio ragionamento era che i partigiani non erano amati universalmente in Italia. E aggiungo, come poteva essere altrimenti con una guerra civile in corso? In una famiglia la madre poteva essere partigiana, il padre un fascista, un fratello fascista e un altro partigiano. Il paese era diviso in due. E ho anche detto che la tattica di guerriglia che usavano i partigiani era quella di colpire i nazisti e nascondersi sulle colline. Hanno preso questa frase e mi hanno accusato di dare dei codardi ai partigiani, il che è completamente falso. Questa è la tattica di qualsiasi esercito di guerriglia. I Che Guevara e Fidel a Cuba, dell'ANC contro l'apartheid in Sudafrica e dei Mau Mau in Kenya, dei Viet Cong. Sono solo fatti. Non ho dato del codardo a nessuno. Queste sono le tattiche che i ribelli usano, mentre Bocca ha scritto cose pazze. Giorgio Bocca è un partigiano, ha combattuto per la libertà dell'Italia. È suscettibile a toccare un argomento così importante? Lo so, ma primo, non ha visto il film. Secondo, non sapeva che prima del film c'è l'annuncio che dice questo film è una fiction basata su fatti storici. Mi scusi, ma qui sta proprio l'accusa. I sopravvissuti di Sant'Anna di Stazzema dicono che lei non li ha voluti incontrare e poi non può raccontare una storia diversa rispetto a quella sancita dai tribunali. Signore, lei sta esagerando. Il sindaco di Sant'Anna era con me alla conferenza. C'era un altro sopravvissuto, Enrico Pieri, a vedere il film e loro dicono l'opposto. Lei non può dire che tutti i sopravvissuti dicono così. È irresponsabile, non è corretto. Non può dire che tutti la pensano così. Alcuni di loro la pensano così. Lei non ha detto alcuni, ma tutti. Fa una gran differenza. Ok, alcuni di loro, ma le critiche ci sono. Le chiedo, lei viene da un paese straniero, gli Stati Uniti. Si è calato nella realtà storica italiana. È difficile dipingere una realtà storica di un altro paese. Lei come ha superato queste difficoltà? Senta, lei deve capire che il film si occupa di soldati neri venuti dall'America per liberare l'Italia. Le due storie sono intrecciate e questo alla gente sfugge. Soldati neri americani sono venuti a liberare l'Italia da fascismo e nazismo. Lei è il primo che dopo 64 anni di quasi silenzio su Sant'Anna di Stazzema ha fatto un film in cui si parla anche di questa vicenda. E sono piovute anche tante critiche. Si aspettava un atteggiamento diverso? Si aspettava magari che l'Italia dovesse ringraziarla? No, l'Italia non mi deve nulla. Chiedo però di essere giusti, di farsi un'idea dopo aver visto il film, poi arrivare a una conclusione non basata su quello che molti hanno descritto senza vederlo. Semplice. È stata una grande esperienza girare il film in Italia e sarà ancora così. Eppure, guardi, c'è addirittura un partigiano che è arrivato a dire la supplico in ginocchio di tagliare quelle scene contestate nelle quali si parla di traditori nel film. Lei però ovviamente questo non potrà farlo. Beh, questa è la prima volta che sento una cosa del genere. Mi lasci leggere una cosa. Appena la trovo sul BlackBerry, gliela voglio leggere. Ecco. Ecco, la sto cercando. Eccola. Ieri un comunicato stampa è stato fatto dall'ANPI. Loro hanno detto che apprezzano l'annuncio prima del film e il contributo che Spike Lee e Miracolo a Sant'Anna hanno dato per far sapere al mondo cosa è successo a Sant'Anna. È un comunicato dell'ANPI. Per me è abbastanza. Basta. Va bene, la ringrazio anch'io. Allora, ma non si arrabbi con noi, facciamo solo il nostro lavoro, ovviamente. No, non sono arrabbiato. Ma alcuni media fanno ciò che in America chiamiamo picchiare il cavallo morto. Vuol dire che non puoi creare polemiche dove non esistono. Il comunicato dell'ANPI che le ho letto dice che è tutto ok con il film, che sono felici, che ora il mondo conosce le tremende atrocità commesse sulla popolazione civile italiana il 12 agosto 1944 nel piccolo villaggio di Sant'Anna di Stazzema. Da parte dell'ANPI è una faccenda chiusa, non gli ho detto io di fare questo comunicato, l'hanno fatto loro. Questo ci ha detto Spike Lee. Giampaolo Pansa, in quel ora basta, basta, detto in italiano, lei che cosa ci legge? Si può davvero dire basta di fronte a una pagina storica che lei conosce bene, insomma, che le ha creato anche diversi problemi? Ma guardi, prima di tutto io sono assolutamente dalla parte di Spike Lee. L'ho sentito parlare adesso, ma ho letto anche tutte le interviste che ha dato ai giornali. Mi sembrava di sentir parlare il Pansa del 2003, quando uscì Sangue dei Venti, e sono assolutamente dalla sua parte. E voglio dire due o tre cose. Primo, anche voi di Radio 24 date troppa importanza all'ANPI, ma l'ANPI non conta un tubo in Italia. L'ANPI è una piccola setta politica, non dimentichiamo che non è l'unica associazione partigiana che esiste in Italia, perché ce ne sono altre due. C'è stata una scissione tanti anni fa nel 48, perché se ne sono andati via personaggi come Parri, come Calamandrei, come altri che consideravano l'ANPI una specie di servo sterzo del PC legato all'Unione Sovietica, e via via con gli anni è diventata una specie di setta di fanatici che, vedendo sparire per ragioni anagrafiche molti dei suoi iscritti, cosa ha fatto? Ha aperto le sedi, le iscrizioni a una serie di giovanotti che appartengono quasi tutti all'area dei no global. Quindi la prima cosa è questa. Insomma, un ingresso soft ha fatto. No, oggi. No, ma io dico la verità, ma Spike Lee è un signore che ama parlare chiaro. Io sono anche molto più anziano di Spike Lee e conosco da anni, studio da anni la guerra civile italiana. Quindi la prima cosa che volevo dire era questa. La seconda cosa, se posso procedere senza sue domande, poi lei mi farà tutti, sì, certo, mi porrà tutti i quesiti che vuole. Questa polemica sul fatto che molti partigiani sparavano e poi scappavano lasciando nei guai la popolazione civile, per certi aspetti è una constatazione assolutamente banale, per altri aspetti è una polemica che non porta da nessuna parte. Banale perché? Perché, come ha ricordato un istante fa il regista di questo film, è... Nelle guerre civili, diciamo in genere nelle guerre di guerriglia, cosa fanno i guerriglieri o i partigiani o i combattenti clandestini senza divisa? Fanno quello, attaccano l'avversario, che di solito è enormemente più forte, cercano di colpirlo, di ferirlo e poi dopo fuggono. E perché? Se non fuggissero non sarebbe più una guerra partigiana, sarebbe un comportamento assurdo. Tra l'altro io ritengo, lo dico qua per chiarezza polemica, che tutta la discussione sul fatto che chi ha messo la bomba in via Rasella avrebbe dovuto consegnarsi ai tedeschi per evitare le fucilazioni, a parte, sì, che secondo me le fucilazioni non l'avrebbero evitate, ma poi non aveva senso pretendere una cosa di questo genere. Quindi è assolutamente normale che nella guerra partigiana i partigiani sparino e scappino. Quindi le dice... Invece che cosa, sì, è accaduto in Italia? Non tutti i partigiani si sono comportati così. Perché dobbiamo anche smetterla di pensare all'universo partigiano come fatto di essere umani tutti uguali. C'erano i codardi, c'erano i coraggiosi, c'erano le persone civili, c'erano i sadici, c'erano i torturatori, c'erano quelli che avevano una strategia politica che spesso imponeva di mettere nei guai la popolazione. Mi spiego, qui siamo al secondo punto della domanda. Alcune formazioni, specialmente le formazioni comuniste, che erano quelle che avevano l'insegna di formazioni Garibaldi, molti di questi capi avevano anche una loro strategia, che era una strategia del partito. Siccome la popolazione civile italiana era restia a impegnarsi nella guerra civile, che è stato uno scontro fra due minoranze, a parte l'esercito tedesco, minoranza pochi fascisti e pochi partigiani, i civili di solito se ne stavano rintanati in casa. Ricordo la definizione di uno grande storico del fascismo, Renzo De Felice, che parlava di grande zona grigia, e per smuoverla c'erano delle bande partigiane che dicevano: bisogna che ci siano degli eccidi, quindi colpiamo i fascisti tedeschi, poi ce ne andiamo, questi si rifanno sulla popolazione, ammazzano, prendono un po' di civili e li accoppano, e quindi l'odio dei civili si riversa verso la parte contraria alla nostra. Non sto disegnando uno schema teorico. Ma questo sicuramente, però pensa, Spike Lee dice, io, è vero, ha cambiato, voglio dire, la verità accertata per esempio di Sant'Anna di Stazzema è che fu un eccidio premeditato, mentre in questo film è stato inserito un eventuale partigiano traditore. Lui ha detto, beh, ma io ho fatto una fiction e c'è scritto, con quella scritta iniziale, questa è una fiction ispirata a fatti storici, io mi salvo. Il timore di molti sopravvissuti è che si consegni alla storia una verità dei fatti diversa, che può poi portare a una sorta di revisionismo anche su quell'episodio. Ma perché arriva? Lei ha paura della parola revisionismo? Ma mi stupisce che Radio 24 consideri il revisionismo una specie di AIDS della storia. No, ma io non ho detto questo. Ma il revisionismo è l'atteggiamento normale di tutti quelli che scrivono storia. Allora, per rispondere alla sua domanda faccio una piccola premessa telegrafica. Io non ho ancora visto il film di Spike Lee, lo spero di vedere oggi pomeriggio perché va nelle sale italiane il venerdì, io sto in una zona di campagna, ma spero che nel centro vicino ci sia il film e andrò a vederlo con molto interesse. L'altra cosa è che c'è sempre qualcuno, l'Italia è stata, la storia della resistenza o della guerra civile italiana è stata un dominio quasi assoluto, incontrastato della storiografia comunista. Potrei fare una serie di nomi, guardi, io sono un vecchio ciclista di queste strade perché sono stato il primo studente italiano a laurearmi quando lei forse non era ancora nato, nel 59 con una tesi a Torino, guerra partigiana tra Genova e il popolo, e pubblicata. Non ero ancora nato. Ecco, perfetto, ecco. Io invece ero nato, sono pure un bambino della guerra. Sa che cosa ho visto? Ho visto durante la guerra civile, io stavo in una città, Casale Monferrato, circondata da una serie di colline che diciamo fronteggiano il Po, e soprattutto con una pianura molto ricca, avevo parenti che stavano in campagna. Qui non era solo il problema dei partigiani codardi, era il problema dei partigiani che se ne fottevano della popolazione civile. Non solo, ma che cosa è successo nell'ultimo inverno della prima guerra civile? Perché poi dopo il 25 aprile gli squadroni della morte, Rossi, ex Garibaldi, ne cominciano subito un altro, come io ho cercato di spiegare documentando bene le mie affermazioni nei miei libri. È successo nell'inverno tra il 44 e il 45 che un sacco di contadini, agricoltori, coltivatori diretti, come diremmo oggi, anche gente molto semplice, cosa ha fatto? Mi avete rapinato, siete venuti parlando dei partigiani, siete entrati in casa, avete voluto da mangiare, avete voluto i soldi, ci avete portato via i vestiti pesanti perché faceva freddo, avete le bande che sono ormai disorganizzate, spappolate, perfetto, vi denunciamo ai fascisti e ai tedeschi perché vi prendano. Guardate che la guerra civile non è mica come viene raccontata sui libri delle scuole medie superiori italiane, che sono quasi tutti fasulli. È stata una roba pazzesca. Senta, terribile. Il 26 ottobre è vero che esce il film ispirato al suo libro? No, non esce il film. Il 26 ottobre viene presentato al Festival di Roma. Ottobre, alla Festa di Roma viene presentato come evento speciale Il sangue dei vinti, che tra l'altro è un film molto bello, diretto da Michele Offei e prodotto da Alessandro Fracassi, che mi hanno interrotto con una visione che non ho colto, che tra l'altro è molto più equilibrato del sangue di ma è vero che ha fatto fatica a uscire, il produttore dice, no, nessuno non lo voleva sono voluti un po' di anni, insomma. Adesso faccio un'altra entrata a piedi uniti, ma dovreste essere più informati voi di Radio 24. Il film non è mai uscito perché è stato il film destinato alle sale, fino a qualche giorno fa non aveva ancora trovato il distributore. E il film destinato di 4 ore, la versione destinata alla fiction, come fiction alla Rai, 4 ore, ossia 2 puntate di 2 ore, non ho, perché non l'ho detto il regista Michele Soavi? Vabbè, ma lo dico io, Michele Soavi. Anche Panzo ogni tanto sta dormendo. Allora, la fiction Rai ce l'ha, l'ha vista, ma però non si decide a metterla in onda. Ma ce la dobbiamo prendere con Spike Lee? Perché ha fatto una fiction ispirata a Sant'Anna, ma prendiamocela contro i burocrati politici e contro tutti quelli che hanno paura di andare contro la vulgata resistenziale, perché adesso non è più così, perché aveva alle spalle il partitone rosso che decideva chi erano i registi che dovevano girare i film, gli attori che dovevano recitarvi, i professori che dovevano prendere le cattedre. Ma l'Italia è vissuta, perché non si è chiusa questa ferita? Domanda questo formidabile, bravissimo regista degli Stati Uniti, ma perché in Italia per per 60 anni hanno parlato soltanto i vincitori. Io mi considero uno dei vincitori perché vengo da una famiglia antifascista, ho studiato con professori come Galante Garrone, Bobbio, Quarta, Torino, Luigi Firpo, però gli sconfitti hanno sempre taciuto. Adesso cominciano a parlare, non voglio dire grazie soprattutto ai libri di Pansa, ma diciamo anche grazie, anche grazie a quelli. Visto che so che lei ci deve lasciare, però mi lasci sono pronto a stare qui anche perfetto in più. Questa è una bella notizia. Mi lasci dare Ennio Mancini, andare un attimo da Ennio Mancini, poi torno da lei. Ennio Mancini, come detto, aveva 7 anni, lei il suo 12 agosto 44 lo ricorda molto bene, ovviamente. Sì, io sono, tra virgolette, rimanendo al film, sono uno dei miracolati di Sant'Anna, perché fra l'altro, tra virgolette, un soldato tedesco invece di spararci addosso ha sparato in aria e ci ha mandato via. Ecco, un altro miracolo di quel giorno. Però se mi permette volevo fare due osservazioni. Sì. Dunque la prima è il giudizio del presidente Napolitano, che rispetto, anche se non condivido, e penso anche che se quel film che ha visto ieri Napolitano l'avesse visto Sandro Pertini, forse Rico, senza neanche il tolgo il forse, il suo giudizio sarebbe stato diverso. Per quanto ho sentito raccontare dallo scrittore Pansa, al quale voglio ricordare, forse lo sa, sicuramente non c'è bisogno, ma per gli ascoltatori, e questo mi è un cruccio, in qualche modo ha avuto qualche anno fa, negli anni '80, un premio intitolato ai martiri di Sant'Anna a Viareggio per il giornalismo. Perché un cruccio, dice? Ma è un cruccio perché forse se io fossi stato a proporglielo ora, possibilmente glielo riderei per le sue affermazioni. Condivido quello che dice Pansa, e questo mi rafforza anche nella mia convinzione che Spike Lee, lui si rivede Spike Lee, lui, cioè Spike Lee è lui del 2003, quando è uscito diciamo il suo libro. Io però non voglio fare polemiche, questo però per quello che penso. Io sono uno dei contestatori, anche se non ho visto il film, però l'ho visto nascere in qualche modo. L'ho visto e mi sono occupato, siccome il film so che è tratto da un romanzo che ho avuto direttamente da Mike Brady, che è l'autore del libro, che conobbi quando fece il percorso lungo la Gotica, e so la trama di quel libro, conosco perfettamente, e noi, io e altri dell'Ampi di Pietrasanta, ripeto, un'altra osservazione voglio fare a Pansa, io non esco dai centri sociali, io esco da Sant'Anna, sono un cittadino qualsiasi che ha lavorato la sua vita, non mi sono laureato ma ho lavorato per tanti anni e poi mi sono dedicato, quando sono andato in pensione, alla memoria, al museo di Sant'Anna per 15 anni. Pertanto dico tutti i centri sociali, no, ci sono dei ragazzotti, certo, ma ci sono anche delle persone che non sono più, che non erano partigiane, ma che sono vissute e nate in quel periodo e cresciute successivamente, invecchiate successivamente. Ecco, io l'ho visto nascere e ho visto e conosco perfettamente tutte le storie che sono state fatte su Sant'Anna. Il discorso dei traditori è un discorso, ecco perché io mi sono impuntato insieme ai miei amici dell'Ampi di Pietrasanta e poi l'abbiamo diffuso agli altri. Mi sono impuntato perché questa storia delle responsabilità partigiane è sempre comunque insistita. Quando si parlava di Sant'Anna non si diceva i fascisti che hanno portato lassù, e è storia anche quelle, hanno accompagnato i nazisti a compiere quella strage, ma si iniziava ma i partigiani, come fossero stati in qualche modo loro i primi e forse gli unici responsabili di quel dramma. La seconda parte di Viva Voce alle 9:35 minuti. Prima di andare agli ascoltatori, Pansa, lei se lo ricordava ovviamente di aver vinto questo premio Martiri di Sant'Anna, premio giornalistico? Boh, francamente no, non lo so, non me lo ricordo. Mancini dice è il cruccio di averglielo dato, potessi oggi... È il cruccio di avermelo dato, se me l'ha dato mi dispiace per il suo cruccio. Non lo so, io non me lo ricordo, devo dire che adesso ormai per metodo, per sistema, per atteggiamento mentale rifiuto tutti i premi che mi vengono offerti, perché sono un signore di 73 anni, penso che i premi vadano dati ai giornalisti giovani, se sono bravi, come ce ne sono tanti, e non a noi anziani. Quindi può anche darsi, io non me lo ricordo di aver ricevuto questo premio, non so nemmeno per che cosa. Se l'ho ricevuto ringrazio, ma questo non cambia il mio punto di vista di oggi. Voglio dire una cosa a proposito di quello che ha detto Mancini, che mi sembra un interlocutore molto ragionevole e di buon senso. Torniamo un istante su questa parrocchia che rispunta ogni volta che esce un film, un libro, un articolo, un convegno sulla guerra civile che non corrisponde ai canoni, io dico, religiosi dell'ANPI. Tanto non è vero che l'ANPI non abbia ruolato dei No Global. Io ricordo bene, l'ho anche raccontato in uno dei capitoli di un mio libro, nel 2006 ho visto su tanti giornali italiani, in particolare su quelli emiliani, non so se su quelli toscani, i grandi avvisi pubblicitari dell'ANPI che chiedevano che degli iscritti nuovi, a partire dall'età di 18 anni. Allora, siccome mi sono trovato molte volte ad avere a che fare con questa associazione, che non stimo, ripeto, non stimo, salvo poi le persone ottime come Mancini che vi appartengono, voglio ricordare prima di tutto questo, e insisto nel dire che in molte zone d'Italia il nervo, come dire, forte dell'ANPI non sono più né i vecchi partigiani, che ormai quasi tutti hanno più di 80 anni, sì, e nemmeno i signori come Mancini, che avevano, non so quanti anni avesse avuto allora, io avevo 10 anni alla fine della guerra. Aveva 7 anni quel 12 agosto 1944. Allora, poi voglio anche dire una cosa, lui fa male a dire ogni volta che adesso esce un libro ci sono delle cose contro i partigiani, perché è anche la reazione, attenzione, questo è un fatto che chi ci ascolta dovrebbe tenere presente, che per 60 anni la storia della guerra partigiana, della resistenza, della guerra civile, della guerra interna è stata monopolizzata da un personaggio solo e da tutti i suoi cultori, che era il partigiano. Il partigiano, io una volta rispondendo al famoso questionario di Proust ho detto: qual è il tuo mito? Io ho detto: il mio mito è il giovane partigiano che libera la mia città, ed è rimasto così. Però se questo partigiano, dopo aver liberato la mia città, voleva conquistare il potere politico e far diventare la mia città una parte di una nuova repubblica progressiva, la chiamavano così, legata all'Unione Sovietica, e fare dell'Italia una specie di Ungheria del Mediterraneo, allora non ci sto più. Non le stava più bene. Mi faccia dare due ascoltatori, Panza. Prima vorrei salutare Didala Ghilarducci, buongiorno, da Viareggio, segretaria dell'ANPI di Viareggio. Ghilarducci, lei ha preso carta e penna e ha scritto una lettera pubblicata sulla stampa intitolata La partigiana a Spike Lee. Lei ha visto il film? Ragazzi, parlate un pochino sì, più forte. Ha visto il film lei? Io ho 87 anni. Ha visto il film, signor? L'ho visto. Che pensa? Senta, io per principio sono proprio contraria a film di guerra, non mi piacciono, non mi piace vederli e non mi piacciono, perciò non posso dare un giudizio spassionato, vi dico la verità, però non sono rimasta molto contenta, sia perché ci sono delle inesattezze che mi turbano veramente. Ma soprattutto quello che mi ha turbato di più e che mi ha indignato e che sono proprio arrabbiata sono le dichiarazioni che ha fatto questo regista, che io stimavo e avevo una certa, non lo so, mi sembrava forse differente a quello che ha detto ora dei partigiani, sicché sono proprio veramente arrabbiata. Non è che voglio insegnargli a fargli dei film, per carità, che me ne guardi, non voglio insegnare nulla a un regista così bravo, però poteva anche informarsi meglio prima di fare certe affermazioni alla televisione e alla stampa. I partigiani non hanno messo nessuno in difficoltà, i partigiani sono morti a 20 anni, mio marito ne aveva 24, il suo figliolo non ha chiamato mai papà perché non l'ha mai visto. Perciò lei capisce bene quel che penso io quando sento fare queste affermazioni. No, io la posso capire, voglio dire, la sua lettera è stata una lettera molto appassionata, rivolta al gentile regista. Cosa direbbe a Spike Lee se l'avesse di fronte? Se l'avessi di fronte le direi: perché non ha parlato con me? Che io, lei ha parlato con due sopravvissuti che avevano 6 anni quando è successo questa tremenda strage, io invece ne avevo quasi 20. Perciò le potevo dire le cose veramente come stavano. Non le dicevo, non gli inventavo delle cose di bravate, di partigiani, no. Le dicevo quello che era vero. E non avrebbe fatto tutte queste figure, non avrebbe suscitato tutti queste reazioni un po', forse un po' anche strumentali, non lo so. O forse gli americani l'avevano calcolato anche questo, probabilmente. Non so più quel che pensare, vi dico la verità, sono un po' deluso, un po' turbata, un po' so che questa cosa qui no, sono giorni che non mi dà pace. Pansa, il turbamento di Didala Ghilarducci è un turbamento che lei capisce? No, ma non soltanto capisco, ma mi colpisce molto, mi impressiona, perché nella mia lunga esperienza di storico dilettante mi è capitato di intervistare tante signore e tante signore come quelle che sono rimaste colpite in modo terribile dalla guerra, se non ho capito male, perché la voce si sentiva poco. Suo marito è morto da partigiano, il figlio non ha mai potuto chiamarlo papà perché sarà nato probabilmente postumo, quando era, il padre è morto quando lui era molto piccolo, la stimo, la cosa. Però purtroppo la verità storica prescinde dalle tragedie personali, quindi io ho un grande rispetto e provo istintivamente un affetto verso questa signora. Avevo letto la sua lettera prima su Repubblica, poi sulla Stampa, mi aveva molto colpito anche la chiarezza e l'eleganza dell'esposizione dei suoi punti di vista, e soprattutto ero rimasto impressionato da un tono calmo, tranquillo, che è lo stesso che ho udito in questo. Però la storia purtroppo prescinde dalle vicende personali. E la guerra civile italiana è stato un massacro pazzesco, come dice la parola stessa, fra italiani, perché certo c'erano degli eserciti stranieri di occupazione come quello nazista o di liberazione come quelli americani e quelli inglesi, però poi dove il segno è rimasto ed è durato per tanti anni è quello dello scontro fra italiani. I partigiani erano quelli, ma se noi mitizziamo la resistenza non facciamo altro che allevare generazioni, adesso la uso io la parola che le ho rimproverato prima, di revisionisti, sì, spesso pasticcioni, spesso malinformati, spesso che non hanno letto, per reazione a una retorica frastornante che si ripete di continuo, è chiaro che comincino a pensare nel modo opposto. Allora, un'ascoltatrice... Anche, perché, voglio ricordarlo alla signora, certamente... suo marito combatteva dalla parte giusta, poi non so a quale formazione appartenesse, che ideologia politica avesse, è un morto nella nostra guerra e quindi va rispettato, perché lui combatteva almeno in quel momento per la mia libertà, anche di bambino. Dopo, se per esempio era un partigiano comunista ed era convinto che il potere dovesse finire nelle mani del PC e quindi di riflesso nelle mani dei sovietici, allora la storia cambia un po'. Mi lasci dare un'ascoltatrice che poi vado al traffico e torno un attimo da Mancini. Silvia da Roma, buongiorno. Sì, buongiorno. Dica. A tutti. Volevo dire che è un pochino difficile intervenire dopo la signora Ghilarducci, per cui ho tantissimo rispetto, e naturalmente anche per le tragedie, le persone coinvolte nelle tragedie come quella di Sant'Anna di Stazzema. Dunque, io non volevo parlare del film di Spike Lee perché non l'ho visto, però volevo dare la mia testimonianza ugualmente. Sono d'accordo generalmente con Giampaolo Pansa, poiché le guerre civili non sono assolutamente schematiche come generalmente presentate dalla storia, ma presentano un sacco di variabili. Anzitutto c'è da dire che in Italia non vi erano solamente fascisti e partigiani, ma vi era una massa di persone che aveva una paura maledetta e che o non faceva nulla o comunque continuava a far finta di nulla e comunque aveva paura. Dunque, la mia testimonianza viene da mia madre, che è tuttora vivente, in gamba e tutto. Aveva 10-13 anni al tempo della Seconda Guerra Mondiale, in un paesino sulle Dolomiti, dove tutti sapevano che, ahimè, tra le bande dei partigiani, e io qui voglio distinguere, perché i partigiani animati da buoni ideali erano naturalmente tutti encomiabili. Io tra l'altro sono di sinistra, per cui non vedo alcun problema. Ci racconti però l'episodio, Silvia? Ecco, in mezzo a queste bande si nascondevano dei derelitti che con dubbia moralità, nessun ideale, perché faceva comodo così, perché si moriva di fame all'epoca, e si conoscevano di persona, perché mia madre mi ha fatto nomi, cognomi, di che paesino fossero, eccetera. Dunque, requisizioni di cibo, galline a casa, erano all'ordine del giorno, e vi era anche una certa paura di questi personaggi, e tuttavia erano presentati con l'epiteto di partigiani. Ora, l'episodio nello specifico era durante la ritirata dei tedeschi. Vi erano questi gruppi che da regioni più meridionali salivano e se ne andavano verso la Germania, e c'era un capitano nel paesino di Alleghe sulle Dolomiti che era molto amato perché probabilmente era l'unico forse dotato di una certa umanità, Beh, questo capitano è stato massacrato insieme a tutto il suo gruppo in ritirata e sono stati, ahimè, rubati anche gioielli, questi cadaveri, insomma, fatte delle cose. E erano stati appunto questi gruppi di partigiani che si conoscevano per nome. Silvia, io la ringrazio per l'episodio. Ma insomma, non è facile essere sintetici, come io dico sempre, ma capisco che il tema oggi è un po' più ampio e un po' più alto. La ringrazio però per questo racconto. L'ultima parte di Viva Voce. Ennio Mancini, lei aveva 7 anni, come detto, quel 12 agosto 44. Qual è l'immagine, il flash che ricorda più nitidamente di quel giorno? Io i corpi dei bambini, degli amici che cercavo, poi l'odore. L'odore tremendo della carne bruciata, era un falò, carne arrostita, e pensi che sulle 560 vittime circa che furono uccise, più di 400 erano state bruciate dal fuoco. Però, se mi permette, volevo fare due cose, rispondere a Spike Lee. Dunque, lui dice che ha avuto l'appoggio del sindaco di Stazzema e del mio caro amico Enrico Pieri. Beh, che dunque, è vero, gli hanno dato la cittadinanza onoraria. Sì, esatto. Però non dimentichiamoci che se leggiamo la stampa dell'altro ieri, c'è una dichiarazione del sindaco di Stazzema, il quale dice: non importano le bugie se arrivano i turisti. Questo è il titolo, io leggo il titolo del giornale. Sì, è vero. Se vengono i turisti, questa è la cosa importante, ecco, le polemiche no. Per quanto riguarda invece Enrico Pieri, lui è turbato. Lui sperava, come me, che il film avesse un successo. E certo gli ha stretto la mano alla presentazione del film, lui rappresenta l'associazione Martiri, è il presidente. Però io, diciamo, ha fatto altre dichiarazioni suffragate dall'assicurazione, lui non condivide tutta questa storia, è amareggiato, profondamente amareggiato. Un'altra cosa che vorrei dire a Didala, l'amica Didala, è che Spike Lee non ha parlato con nessuno, magari avesse parlato con i bambini, ma non ha parlato neanche con loro, non ha voluto ascoltare nessuno. Noi ci eravamo proposti, non soltanto i bambini di allora, ma altri che portassero il contributo. C'è un partigiano, il presidente della sezione Moreno Costa di Pietrasanta, che ha collaborato con la divisione Buffalo per dei mesi lungo la Gotica. E anche lui non è stato, lui si era proposto, non è stato ascoltato. Mi faccia dire su questo, Marco De Paolis, buongiorno, procuratore militare, che è stato il protagonista, insomma, come PM militare della vicenda del processo su Sant'Anna di Stazzema. Lei ha visto il film, è stata distorta la realtà, oppure quello che scrive Spike Lee all'inizio, questa è una fiction ispirata a fatti storici, salva tutto il contesto? Ma senz'altro è una fiction, come hanno dichiarato sia il regista sia lo sceneggiatore. Io posso riferirmi, ecco, soltanto alla realtà giudiziaria, che è quella che conosco, perché la realtà storica la lascio chiaramente agli esperti. Rispetto alla realtà giudiziaria, ecco, direi che in tutto sommato il film è abbastanza fedele, tranne l'episodio, ecco, del partigiano traditore, che non risulta accertato nel processo. Però dobbiamo anche dire che la realtà processuale è una realtà limitata, più limitata di quella storica, quindi nel processo quell'episodio non c'è. Però, trattandosi di una fiction, ecco, penso sia possibile accettare in linea generale questa versione. Pansa, secondo lei queste ferite, queste immani ferite che Spike Lee dice la riprova delle polemiche di questi giorni dimostrano, non sono assolutamente guarite? Si guariranno mai? Si rimargineranno mai? Ma dunque, la parola mai non mi piace, ma non mi piace perché quello che può avvenire, magari in anni in cui io non ci sarò più, auguro alla signora che ha parlato di esserci, anche se è più anziana di me, e naturalmente a Mancini di essere anche lui, non si potrà mai dire fino a che punto arriverà la ricerca storica. No, quello che mi preme è di spiegare questo tema della ferita. È una ferita che io da anni incontro dappertutto, lo incontro nel cercare testimonianze per i miei libri, li incontro quando vado a presentarli, lo sto ancora facendo l'ultimo, incontro quello che la signora che raccontava di quello che era avvenuto in questo paese delle Dolomiti, la paura dei civili, è l'argomento tra l'altro del mio ultimo libro, I tre inverni della paura, dove io, dopo aver scritto tanto dei partigiani, dei fascisti, dei tedeschi, racconto dei civili, perché una cosa da smentire è che per citare un vecchio titolo della primissima storia generale della Resistenza italiana, firmata niente poco di meno che da Luigi Longo, che allora era il numero due del partito guidato da Palmiro Togliatti, ed era intitolato Un popolo alla macchia, è una bugia totale. Le ferite ci sono perché intanto un sacco di gente, come ci ha raccontato la signora, che io chiamo, mi pare stia a Roma, ma comunque ci ha raccontato l'episodio delle Dolomiti, ci sono quelli che si sono trovati in mezzo e hanno sofferto sia delle violenze e delle angherie dei fascisti, dei tedeschi, che dei partigiani. Poi ci sono le ferite perché, e questo nessuno dell'ANPI mi potrà convincere del contrario, è che per 60 anni la storia della guerra civile è stata raccontata da una parte sola. Allora, aver combattuto per una causa giusta, con tutte le parentesi che si riferiscono alla strategia politica delle formazioni più importanti, più numerose, che erano quelle comuniste, che era di qualt'altro genere, e aver combattuto per una causa giusta non autorizza a mettere il sasso in bocca, come fanno i mafiosi, a chi ha perso. Ma ci sono milioni di italiani che non soltanto hanno parteggiato per la Repubblica Sociale, ma si sono trovati in mezzo e hanno perduto persone. Io vorrei chiudere però con una voce, è quella di Adolf Beckert, che all'epoca aveva 23 anni, era soldato delle SS della 16ª divisione ed era lì a Sant'Anna di Stazzema, ha visto e ha raccontato, è venuto alla Spezia, l'unico, uno dei pochi che è venuto alla Spezia a raccontare quello che fu Sant'Anna di Stazzema. E ha affidato alla nostra Elisabetta Fusconi quello che fu il dopo quell'eccidio. Giusten, sicher hatten wir nicht geweint, gell? Sicuramente non piangemmo. Eravamo però molto molto sconcertati di fronte a quello che stava accadendo. D'altra parte, ci dissero che quelli erano partigiani e in base al diritto di guerra i partigiani dovevano essere uccisi. Ma vedere colpiti donne e bambini per noi era una cosa nuova. Nessuno cercò di scappare, stavano in ginocchio e pregavano, il prete davanti a tutti. Ho ricordi tristi su come furono uccisi. Mi ricordo come le pallottole hanno perforato i corpi e le teste. Mi sono sempre chiesto perché di Sant'Anna ho ancora ricordi così nitidi. E la risposta è che un avvenimento come quello a cui ho assistito non potrò mai dimenticarlo. Non potrò farlo uscire dai miei pensieri. Mi fa male ancora adesso, quando mi capita di parlarne. Ci fermiamo qui per oggi. Davvero grazie a tutti. Viva Voce torna lunedì.